Di Giovanni Minoli. The United States is prepared to work with any nation. Siamo pronti a collaborare con tutte le nazioni, compresa la Russia e l'Iran, ha affermato Obama, che ha ribadito: gli Stati Uniti non possono risolvere da soli i problemi del mondo. There's a man with a gun over there. Putin, che era il suo primo intervento all'ONU in 10 anni, la pensa diversamente da Obama e difende Assad. Iraq, Siria. È un errore non cooperare con il governo siriano, ha affermato il presidente russo, critico sulla strategia americana di addestrare e armare i ribelli siriani moderati. Assad deve andarsene, siamo pronti a cooperare con tutti ma non con lui. Assad deve restare, serve una coalizione come quella che sconfisse Hitler. È l'estrema sintesi delle posizioni di Barack Obama e Vladimir Putin. Dunque, sulla Siria prima, scontro, poi aperture tra Obama e Putin, ma divergenze profonde sul come affrontare il problema di Assad e quindi anche di tutta la migrazione delle persone che fuggono dalla Siria. Sebastiano Caputo è un giovane freelance appena tornato da Damasco, in Siria naturalmente. Ecco, questo scontro tra Obama e Putin a Damasco ha prodotto altra paura? Sì, buongiorno. Guardi, non proprio, dal momento che la Siria gode di alleanze profonde, storiche, con paesi come la Russia, l'Iran, il Libano. Vabbè, questo l'abbiamo visto. Questo l'abbiamo visto naturalmente a New York nella riunione del Consiglio dell'ONU. Ban Ki-moon dice però che la crisi siriana è fuori controllo da anni. È una sensazione che c'è anche lì a Damasco? Sì, sicuramente la crisi è fuori controllo perché in questo momento l'ISIS e Jabhat al-Nusra, che sono i due gruppi che assediano il paese da 4 anni, controllano il 70% del territorio. Quindi Assad non ha più il controllo del territorio e quindi avrà anche molto meno il sostegno della popolazione? Sì, Assad controlla soltanto alcune città principali, soprattutto Damasco e i dintorni, ma c'è da dire che il consenso popolare di Assad è molto importante, infatti in 4 anni i suoi fedelissimi non lo hanno mai tradito e comunque alle ultime elezioni ha avuto l'88% dei consensi, sì. Che è un dato molto importante. Vabbè, però elezioni in un regime hanno sempre delle caratteristiche diverse. Nell'esercito però, che dovrebbe essere fedele, ci sono state moltissime defezioni e allora anche lì c'è un'incertezza. Sì, più che defezioni possiamo parlare di divisioni interne all'esercito, ma comunque c'è da dire che sono tantissime i volontari che stanno andando a combattere al fronte, soprattutto quei giovani che all'inizio del conflitto avevano 14, 15, 16 anni e raggiunta la maggiore età possono andare a combattere. Se posso aggiungere una cosa veloce, sì, è un regime, ma c'è da dire che esiste un Parlamento eletto con una maggioranza e un'opposizione. Senta, e la Siria è una repubblica, questo è molto importante. Senta, ma i migliaia di profughi siriani che fuggono, di cui parleremo, fuggono più da Assad o dall'ISIS? Beh, sicuramente dall'ISIS. Io sono stato a Damasco nei campi di rifugiati siriani e era tutta gente che fuggiva da zone circondate come Aleppo, zone occupate come Raqqa, come Homs, quindi e sicuramente quindi, fuggono dalle zone occupate. E quindi a Damasco, malgrado tutto, non si vive male, questo sta dicendo? Sì, esattamente. Nonostante la guerra, Damasco continua a vivere e poi, per fare una battuta, non è un caso che la Merkel voleva soltanto gente siriana, cioè gente istruita. Vabbè, sono istruiti e quindi adesso parleremo proprio di quello. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, seguiteci e commentate anche su Twitter, hashtag dentro la notizia, sulla nostra pagina Facebook. Adesso entriamo allora nella notizia. Dentro la notizia. Dentro la notizia. E allora la domanda di oggi è questa: gli immigrati, soprattutto siriani, sono una risorsa soprattutto per la Germania? Questa è la domanda di oggi. L'abbiamo sentito appena concluso un vertice per distribuire 120.000 profughi in vari paesi, ma nella buona notizia ce n'è una cattiva. Per la prima volta un vertice di questa importanza si è concluso con un voto a maggioranza. L'Europa si è spaccata. È un fatto grave, 4 paesi che fanno parte del blocco dell'Est hanno rifiutato il piano. Sono la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Repubblica Ceca. Anche la Polonia ha esitato fino all'ultimo momento. L'Europa allargata, quella a 28, in una grave crisi istituzionale. Allora Mario, da dove partiamo? Giovanni, come sempre dalla notizia, cioè dal vertice A28, che appunto come dicevi è deciso a maggioranza, è un piano d'accoglienza da 120.000 profughi, in realtà è un numero inferiore a quanto stimava l'ONU, che parlava di 200.000, e il vertice era già andato male nei giorni scorsi, ma hanno cercato di recuperare la situazione, in particolare la Merkel. I candidati all'asilo politico sono molti di più, la sola Germania ne prevede 1 milione, immaginare, e i tedeschi hanno impresso sicuramente un cambio di marcia sul tema. Renzi dice che è un problema europeo, è vero, però non è stato sufficiente a cambiare, far cambiare idea a Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, sì, e Ungheria. E insomma, secondo me la questione è apertissima e non, è ancora lontana. Le soluzioni sono ancora in alto mare, sì. Intanto i muri crescono. Ecco, tu hai citato la cancelliera Angela Merkel, credo forse è importante partire da lei in questo momento per capire, parliamo naturalmente degli immigrati, per capire la svolta tedesca, la ragione, le ragioni di questa accelerazione nella politica sull'accoglienza da parte della Germania. Veronica De Romanis, economista, ha scritto molti libri sulla questione tedesca, sulla Merkel, ne sta scrivendo adesso un altro sulla bellezza dell'austerità, i suoi pregi e i suoi limiti. Ma sull'immigrazione abbiamo una novità che ha colpito tutti in queste ultime settimane. La Merkel oggi è capofila dell'accoglienza. Ma perché non avevamo capito nulla? Ma no, in realtà ha fatto questa apertura per due motivi. Primo, perché come ha dichiarato lei stessa, la Costituzione tedesca lo prevede, ovvero il diritto di asilo deve essere concesso a tutti coloro che ne fanno richiesta. Il secondo motivo, secondo me, è più di carattere personale, nel senso che la cancelliera è cresciuta in un regime totalitario e questo fa sì di, questo le consente di capire meglio rispetto agli altri leader europei la posizione di chi fugge da un paese senza libertà. Certo. Non a caso libertà è una delle parole che lei usa più spesso nei suoi discorsi. Però, dottoressa De Romanis, la cancelliera è stata accusata in questa apertura di selezionare i profughi, di volere solo i siriani di classe media, istruiti, insomma quelli utili per lo sviluppo industriale e non solo della Germania. Cioè sembra quasi anche una mossa cinica, una pianificazione del futuro, è un'interpretazione malevola questa. Ma un po' sì, non direi che la cancelliera stia scegliendo i profughi, semplicemente l'emergenza in Siria in questo momento. Quello che secondo me invece ha scelto di fare è di affrontare in modo strutturale un'emergenza, un problema, e lo vuole trasformare in un'opportunità per il suo paese. La Germania è il paese in Europa che invecchia di più e quindi ha bisogno di forza lavoro. Ecco perché ha fatto stanziare quasi 10 milioni di euro per l'inserimento di questi profughi. Ovviamente non si tratta di buonismo, si tratta, certo, quindi non è assistenzialismo, anche questi profughi poi dovranno impegnarsi a integrarsi e a rispettare le regole tedesche. Ma lei si aspettava questa resistenza che c'è stata al vertice da parte dei paesi dell'Est? Ma in parte sì, è sorprendente, si può spiegare con il fatto che sono delle democrazie giovani e quindi si devono consolidare. E hanno paura? Hanno paura, hanno una resistenza che crea un problema in Europa perché è una mancanza di solidarietà, cosa che invece l'Europa non ha fatto mancare a questi paesi. Se andiamo a guardare i numeri, oggi i paesi dell'Est ricevono più fondi europei rispetto ai paesi dell'Ovest. E poi secondo me costruire muri è una soluzione miope. Questo la cancelliera lo ripete spesso, i muri prima o poi cadono. Ma e quindi le multe risolveranno il problema con questi paesi? Ma sempre meglio trovare un accordo, però è chiaro che non ci si può tirare indietro e far fare il lavoro solo agli altri. Questo in Germania si chiama azzardo morale. Senta, quindi lei pensa che i paesi dell'Est cambieranno linea? Beh, intanto hanno dovuto accettare la decisione. Senta, prima con l'euro, adesso con l'immigrazione, la Germania è sempre più dominatrice in Europa, leader, diciamo. È una realtà con la quale oramai bisogna fare i conti in modo definitivo? Ma è leader nel senso che è il paese in questo momento più forte perché ha fatto in passato riforme che altri paesi non hanno fatto. Quindi questo le consente, ad esempio, tornando sul tema dell'immigrazione, di gestirla e di avere dei fondi da stanziare. Lei è stata un'italiana, presenta un vertice indetto dalla Merkel con le donne importanti dell'Occidente. Che cosa l'ha colpita di più della Merkel in questa situazione, diciamo? La capacità di ascolto e la curiosità verso gli altri. Senta, un'ultima cosa, è credibile, come scrivono molti giornali, che la Merkel e il governo sapessero tutto di quello che è capitato alla Volkswagen? No, io penso che la Merkel non sapesse, perché sapere una cosa del genere e non denunciarla significa esporsi a un rischio troppo grosso, ovvero quello di essere complice. In Germania queste cose non si perdonano né si dimenticano e questo creerebbe un problema all'obiettivo della cancelliera che vuole correre per il quarto mandato. E quindi non se lo può permettere. No, tra l'altro questa è un'impresa che è riuscita solo a Kohl, non a caso il suo padre politico da cui lei ha imparato tutto. Beh, una bella scommessa questa de Romanis sulla Merkel che non sapeva, eh? Mi pare difficile, perché alcune evidenze di cronaca dicono che alcuni membri del governo, insomma, erano... Vabbè, la Merkel, qui parliamo di lei, insomma, tu, ma... E lei non lo so. Tu, Pietrangelo? Non riesco a berla, io immagino che sia una polpetta ben avvelenata, perché se solo si facesse un'indagine su tutte le strategie di mercato di importanti marchi, beh, ne vedremmo delle belle, e le vedremmo tutte a stelle e strisce. Mi sembrava che mancava... Pietrangelo, senti, tu hai sentito comunque le argomentazioni, per tornare al tema principale, quello della immigrazione, le argomentazioni della De Romanis. Tu guardi sempre a est e dici che est è Europa, fino alla Russia. Eppure quei paesi hanno rifiutato, l'abbiamo detto e ripetuto, il piano sull'immigrazione. Forse ti sbagli, non sono così Europa come si sente, o non sono questa Europa com'è? Loro sono totalmente Europa, e semmai l'Unione Europea non essere Europa, piuttosto è Occidente, e quindi è un'altra storia, ed è qualcosa che è perfino ostile all'idea stessa d'Europa. Ma perché, Mario, si continua a dire che i paesi europei sono saturi di immigranti e poi si dice c'è bisogno, perché se no non sta in piedi nessuna forma di welfare? È un'equazione difficile. Intanto qui noi parliamo soprattutto di profughi, no? Che sono in fuga dalla guerra. Certo. E hanno, come dire, diritto. Non è migranti non economici, esatto, diciamo. Esatto, quindi già dobbiamo separare in due la questione. Poi c'è il tema della demografia, come avevamo visto, e in realtà, tanto per fare un esempio, l'Italia ha accolto finora meno della sua capacità prevista dalle quote precedenti, tanto per dire. La Germania invece è ben oltre, quasi al doppio, mi pare, della sua quota, e la sta incrementando. È evidente che noi siamo un paese di passaggio, dobbiamo salvare i profughi, registrarli, cominciare lo smistamento poi per i reali paesi d'accoglienza. I dati del Consiglio Europeo dei Rifugiati poi parlano molto chiaro, quindi secondo me va levata un po' di demagogia da parte di tutti a cercare di risolvere questo problema. Beh, è il momento di considerarlo invece un tema centrale del nuovo mondo, del nuovo modo di organizzare il mondo. Della politica però estera. Intanto... I profughi, quelli che soffrono e che muoiono, sono tanti. Tu, Pietrangelo, hai una testimonianza, mi sembra, sulle tragedie di chi viene da lontano. Sì, è la storia di Mansur, è una storia vera, raccolta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che in esclusiva per noi, nell'interpretazione di Salvo Piparo, ce la fanno ascoltare. Avevano passato 7 anni da quando Umare l'aveva portato in Italia, ma mai, a dire la verità, Mansur era riuscito a scendere in capo a Davaica. Tanti, troppi erano ancora le nottate dove si era svegliato sudato, pensando di essere ancora sopra quella barca in mezzo a tutto domare. Tanti, troppi erano ancora i ricordi che lo portavano run un pezzo ruso munno aveva affondato. Eppure quel giorno Mansur si fece fottere dal suo passato e dai suoi ricordi, che col tempo erano diventati fotografie che si inseguivano rintuoso ci devia. Grigio, scuro, acqua, salata però, mare, incazzato, facce come i piace, facce senza lacrime, feniero. Piccirette scantate, mate disperate, e mensa a tutti ci semate, quella di Mansur. Mare, Tarepole, è in capo a tutto nuvole, scuruse, l'aria. Anzi no, lupi, lupi pronti a scendere nei cuori dei picciriddi, nei cuori dei padri, mortificati, rassegnati, che niente possono fare. Picciriddo non respira più da un paio di ore. La madre se lo stringe al petto speranziosa. La madre lo sa, tutti lo sanno quello che si deve fare. Sono i patti che si fanno con lo scafista prima di partire. Ma lei, la madre, se lo vuole tenere ancora una votanticchia tra le sue braccia. O tinto scafista dall'ordine, o tu, o Picciriddo. Le parole rimbombano a mare aperto. La madre si alza, si vergogna di non avere più lacrime, si mette a ginocchioni, prega il suo Dio e con la dignità di chi sente ancora, nonostante tutto, di appartenere al genere umano, lascia scivolare un Picciriddo a mare avvolto in un lenzuolo bianco. Abidù, così si chiamava un Picciriddo. Beh, una testimonianza davvero, davvero forte, senza retorica, con la passione e la tragedia nel cuore. Questi profughi, Mario, sì, vengono, l'abbiamo detto, ripetuto, vengono soprattutto dalla Siria. Ma la Germania, come abbiamo visto, li accoglie, abbiamo detto, qualcuno dice sì, gli conviene. Però è una novità oppure è una tradizione? No, non è una novità, perché la Germania da molti anni ha un piano di accoglienza speciale per i siriani. Hanno perfino una mappa programmata dell'accoglienza nelle varie regioni tedesche. Sono anni luce avanti rispetto a noi in questo. Il 60% di richieste di asilo dei siriani, 122.000 nel 2014, è invece in crescita esponenziale quest'anno, sono dirette verso due paesi sostanzialmente, la Germania e la Svezia. Questi numeri saranno come minimo raddoppiati quest'anno, quindi in realtà non è una novità nella, diciamo, nella politica. No, e poi in Germania comunque ci stanno tantissimi, anche tantissimi italiani. Paola Concia, che era un deputato del Partito Democratico, ha fatto una sola legislatura e poi ha deciso di lasciare per trasferirsi a Francoforte. Perché? Intanto perché sono sposata con una donna tedesca e quindi volevamo riunire la famiglia. E quindi avete scelto la Germania. Ecco, ma il lavoro l'ha trovato facilmente? Diciamo, sì. Che cosa fa adesso? Un buon curriculum. Faccio la consulente alla Camera di Commercio Italiana per la Germania. Ah, ho capito. Senta, ma perché i profughi cercano prevalentemente un nuovo inizio in Germania? Perché è il paese più ricco? Ma sa, questo elemento sicuramente è un elemento importante. Poi la Germania è il paese che accoglie più profughi da sempre. Certo, Europa, sempre. Quindi, tanti italiani. Il welfare che aiuta, è un paese dove ci sono molte opportunità, c'è molta flessibilità. Ma in Germania, nel dibattito sì, su questo tema, l'opposizione sì, all'integrazione è forte oppure limitata? Beh, intanto un po' di opposizione all'integrazione, diciamo, a questa scelta della Merkel di aprire sì, i confini, c'è anche all'interno del suo partito. Però la Merkel è forte di un sostegno abbastanza sì, impressionante anche in questa scelta, mi pare, sì, no? Anche in questa scelta, nonostante appunto ci siano state polemiche, ma sì, lei deve pensare che qui sono arrivati i profughi 10.000 al giorno, cioè, insomma. Il settimanale Spiegel ha fatto una copertina sì, con Angela Merkel vestita da suora sì, e con il titolo Madre Angela. Madre, ecco, c'era una feroce ironia, insomma. Ma lei comunque è sempre stata chiamata la Mutti della Germania, la madre della Germania, insomma, sicuramente Spiegel è molto dura, probabilmente insomma è legata al fatto che lei ha questo grande consenso e questa grande voglia di farsi amare dai tedeschi. Certo, no? È facile ad amare la Merkel secondo lei? Ma io adesso confesso che la amo, quindi... Vabbè, una deputata del PD in Germania sceglie la Germania. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms. Pietrangelo, però l'ho visto che è rimasto Abidù. No? Sì, io sono fermo a Mansur proprio perché Abidù, il bambino morto versato nel mare, era suo fratello. Il suono di un clacson riportò Mansur al suo incrocio. Era già scattato il verde, ma lui da sopra quella barca non se ne poteva accorgere. Quando anche l'ultimo di quei pensieri ci sbariò, La Diessa. Mansur non era più picciriddo tra le braccia di sua madre, ma un qualunque lavavetri che stava pure bloccando il traffico di mezza Palermo. Tuico, arrassati in mezza strada! Qualcheduno lo mandò a fare un toculo, qualcun altro buttò la solita bestemmia. Una di queste arrivò fino al Padre Eterno Carighio e si ci asciugò una lacrima. Mansur invece calò la testa e se ne andò nel marciapiede di fronte, dove aspettò il prossimo semaforo rosso e il prossimo automobilista da persuadere. Mario, ma la risposta tedesca è giusta? Sì, per l'accoglienza non è la soluzione, ovviamente. Sappiamo tutti che l'immigrazione è scatenata dall'instabilità e dalle guerre del Medio Oriente. La guerra, per me, si ferma solo con la guerra, soprattutto se hai a che fare con ISIS, voglio dire, no? Hai un gruppo di sgozzatori, stupratori, dei criminali, non li fermi certo offrendogli un mazzo di fiori, insomma. È un tema di politica estera. Onorevole Della Vedova, cosa dobbiamo imparare dai tedeschi sull'accoglienza? Ma che a un certo punto le decisioni vanno prese, non possono essere rimandate all'infinito. Decidere di accogliere significa poi regolare i meccanismi di accoglienza. Senta, noi ci facciamo belli del fatto che adesso il problema dell'accoglienza è diventato un problema europeo, come se fosse merito nostro. Davvero è merito di Renzi? Ma il governo italiano da un anno e mezzo sosteneva in tutte le sedi multilaterali e bilaterali in Europa che eravamo solo la frontiera, sì, dell'Europa. Lo sosteneva, ma un po' inutilmente, perché è diventato tale il problema solo quando è entrata in campo la Germania. Ma guardi, questo... sembra vero, un fatto. È un fatto che quando si è aperto, diciamo così, il canale balcanico, sì, è diventato più facile affermare le nostre ragioni, ma il terreno era già molto ben preparato. Senta, quattro paesi dell'est non hanno accettato le quote, la Catalogna lascia la Spagna o comunque ci prova. Ma l'Europa di fronte ai problemi identitari si sfarina invece di unirsi? È un po' la fine di un sogno? Ma guardi, in Europa c'è un rischio di rinascenti nazionalismi, è un rischio vero, un pezzo del popolo e dell'opinione pubblica europea accompagna queste rivendicazioni nazionaliste. Io dico una cosa a me, a lei, a chi ci ascolta, a tutti i cittadini, certo, europei, il ritorno del nazionalismo significherebbe il ritorno all'Europa come l'abbiamo conosciuta fino alla Seconda Guerra Mondiale e non è, temo, compatibile col mantenimento del mercato unico che è stato un fattore di progresso e di prosperità. D'accordo, però se sono tendenze che sono in atto vuol dire che qualcuno ha sbagliato, può essere l'Europa dei burocrati? Ma guardi, i burocrati possono piacerci o no che stiano al Campidoglio, a Palazzo Chigi, al Pirellone Lombardo o a Bruxelles. Dove ce ne sono di più? Ma guardi, credo che siano equamente distribuiti. Il punto è che la responsabilità dei politici e degli opinion leader europei oggi è quella di spiegare che non ci sono colpe specifiche di Bruxelles. Bruxelles fa o non fa quello che dice la politica, esatto, e quindi sono i politici che non riescono a decidere. Serve una coalizione di volenterosi che intervenga militarmente in Siria, secondo lei? Sempre per evitare l'esodo? Guardi, serve una coalizione di volenterosi che si occupi del tema siriano. Per non fare la fine della Libia? Il tema dei bombardamenti è un tema complicato. Ma noi siamo d'accordo o no? Perché la Francia bombarda, noi cosa diciamo? Ma Renzi si è espresso in modo chiaro sul fatto che... Cioè, non è contro i bombardamenti. Noi pensiamo a un altro tipo di strategia, ma perché vogliamo un risultato più positivo. Ricordiamoci anche che noi stiamo assistendo a una lotta fratricida all'interno del mondo islamico di cui dobbiamo occuparci, perché è un problema nostro, ma non è colpa nostra. È una guerra civile certamente all'interno del mondo islamico, ma i francesi bombardano perché sentono il pericolo a casa loro? Ma il pericolo a casa loro l'hanno già visto, sperimentato in modo deflagrante, cosa che in Italia non è accaduta fino ad oggi, per ci auguriamo fortuna, non certo, accada, e lavoriamo su questo. Io non penso che si debba come dire, ragionare, bisogna ragionare in termini di una strategia di contenimento, di accompagnamento delle evoluzioni positive. Senta, quando se ne vedranno sul terreno. Senta, onorevole Della Vedova, un'ultima cosa. Lei ha difeso gli albergatori che ospitano i migranti. Perché? È una scelta strategica? No, gli albergatori stanno dando una mano, alcuni albergatori stanno dando una mano al governo italiano a rispondere nel modo più civile possibile a un'emergenza che è quella dei profughi che arrivano nel nostro terreno, territorio. Affrontare in modo civile questa emergenza ci ha dato e ci dà più forza per chiedere che l'emergenza venga affrontata. Ma noi, un'ultimissima cosa, quale sarà la proposta italiana agli organismi internazionali? In due parole, perché siamo oltre il tempo. No, noi stiamo sostenendo l'UNHCR, il World Food Program, ad esempio perché si rafforzi la capacità di accoglienza dei paesi come la Turchia, il Libano e la Giordania, che stanno già facendo uno sforzo straordinario e incomparabile a quello che facciamo noi. La Turchia mi sembra che giochi su tanti tavoli. Questo sì, però c'è un dato di fatto, che è il numero dei rifugiati che ancora sono sul territorio turco. 800240024 per gli sms, 349-238-6666. Seguiteci anche su Twitter, dentro la notizia, sulla nostra pagina Facebook. Noi torniamo dopo la pubblicità. Mix 24. 9:34, 55 secondi, rientriamo con gli sms naturalmente, rassicuriamo Alessandro che dice che non li consideriamo, invece li consideriamo sempre, abbiamo cominciato ieri e continueremo tutti i giorni, e quando sono interessanti e firmati. Caro Minoli, due cose, ci scrive un ascoltatore, due cose: decidere a maggioranza nella CE è un fatto di maturità, non di crisi. La Merkel è più leader e meno follower, gli altri pseudo leader europei sono dei nani. Beh, un pochino di verità c'è, questo fatto della scelta del votare a maggioranza, forse un passo avanti nel momento in cui c'è un'Europa 29 che fa davvero difficoltà a marciare. Anna dice: i siriani sono bianchi, quindi vanno bene, invece con i profughi africani non c'è questa compassione. Abbiamo il telefono Marco da Milano, buongiorno Marco. Buongiorno. Dica. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire che la scelta della Germania non è una scelta di compassione, è una scelta economica. Per comprendere questo, non perché io sia un economista, ci mancherebbe, anzi sono ben lontano, ma basta andare a vedere sulla piattaforma TED che cosa dice l'economista Strack di quello che accadrà e sta accadendo in Germania in merito alla manodopera, la mancanza di personale qualificato da qui al 2030. Infatti, è quello che diciamo, una scelta economica, non a caso si scelgono i siriani che sono mediamente più colti, più preparati e quindi hanno probabilmente un innesco nel mercato del lavoro più facile. Infatti Strack parla di 7-8 milioni di persone, da qui al 2030 sono 14 anni circa, a 500.000 sono 7 milioni, è quasi un dato matematico, fa quasi ridere, al di là della compassione che si prova. Grazie Marco. Alessandro scrive: ma perché non si fanno politiche a favore delle nascite invece che chiamare gente da fuori? Io sono con i paesi dell'est, sui paesi dell'est però c'è anche da dire che adesso hanno tirato su, diciamo, le barriere, però prima, e quando si trattava di venire, erano ben contenti. L'allargamento è stato programmato. L'allargamento è complicato, no? Posso dire una cosa ricollegandomi a quello che diceva Marco, il nostro ascoltatore? In effetti, dietro le mobilitazioni di solidarietà c'è un patto economico, perché anche nelle disgrazie c'è sempre da fare. Ricordate quando all'indomani del terremoto in Abruzzo poi si registrarono tramite le intercettazioni le risate di soddisfazione di chi già immaginava gli affari? Certo. La stessa cosa si ripropone adesso con l'esodo dei migranti. Affari sicuramente per chi poi deve amministrare la solidarietà, ma affari soprattutto per chi gestisce il traffico di carne umana. Perché di questo si tratta, perché c'è una precisa strategia nello scatenare il caos e nel determinare questi che sono veri e propri sommovimenti di faglie, non più terrestri ma umani, che generano un mercato. Andiamo con la canzone di Pietrangelo. E allora gli ambulanti, perché ho capito oggi, uscendo da casa e incontrandone tantissimi, che sono i portatori inconsapevoli di un istinto che però è benefico perché genera presepe ovunque. E allora ogni periferia diventa un centro e adesso ogni centro con loro in mezzo si trasforma in una sorta di casba di allegra confusione, dove perfino un solo uovo, a comprarsi un solo uovo, determina l'incontro degli sguardi. Cioè non è che si sommano le solitudini, ma si genera finalmente il contatto. E quindi chiedo: avete cucine a gas da fare a riparare? Sono i Tinturia ambulante. Vai. E tu, Mario? Cominci con la tua bolla cattiva. No, bolla cosa cattiva. È dedicata oggi all'Europa, la bolla cattiva? All'Europa, ai giornali pro Europa. Partiamo con la sigla. Dai. Insomma, Giovanni e Pietrangelo, ma avete letto? Bruxelles dice: ah, no, non dovete in realtà spostare le tasse sulla casa. È tutto il contrario di quello che sta facendo Renzi. Ora, insomma, la sovranità ancora il paese ce l'ha, non è che non ce l'ha, però insomma si nasconde in realtà dietro tutte le titolazioni che ho visto stamattina il solito pregiudizio sul nostro disordine contabile e così via, come se in realtà poi gli altri paesi fossero dei geni della partita doppia. Solite indiscrezioni, raccomandazioni, e alla fine noi dovremo fare i compiti a casa e anche in trasferta. Avete visto che Matteo Renzi non l'ha presa benissimo, ha fatto partire anche lui la sigla di Rocky come noi, ha tirato quattro cefoni agli eurocrati, e però ho letto i parrucconi dell'impaginato, degli incipriati, del fisco politicamente corretto, tutti che fanno: oh, vedete che un buzzurro quel capo di governo. Ragazzi, passano i presidenti del Consiglio e loro gli indignati restano, e tutti i governi italiani se la sono cavata così. Vogliamo dire che cosa c'è in giro per l'Europa? Vabbè, allora diciamolo, per esempio c'è secondo me un'ossessione. È un'ossessione kubrickiana, no? È come se ci fossero le tasse ovunque, vengono. E allora, scusa, domanda, Giovanni, c'è l'armonizzazione fiscale in Europa? No. L'Irlanda ha smesso di essere un simpatico rifugio per le multinazionali in cerca di un fisco agevolato? No. Il Lussemburgo non è più il Granducato degli elusori fiscali? No. Assolutamente. Juncker si è dimesso per tutto questo? Gli erano chieste le dimissioni? No. No. Gli austriaci hanno smesso di andare in valigia? Renzi può fare. Insomma, Renzi ha ragione questa volta. No, Renzi ha ragione, come diceva Totò. Ma rilaccia il piacere! È così, dai. Oggi su Rai 2 inizia un vero programma di servizio pubblico. Noi diamo notizia volentieri. Tu Next di Annalisa Brucchi, dedicato alla divulgazione dell'economia. Annalisa è riuscita nelle due edizioni precedenti a rendere l'economia divulgativa e accattivante. Ecco, quali sono le novità di questa stagione, Annalisa? Le novità di questa stagione, praticamente il format rimarrà lo stesso, ma ci sono, diciamo, tre novità. La prima è sicuramente una rubrica di Yannis Varoufakis, l'ex ministro delle finanze greco, che racconterà la macro, dalla macro alla microeconomia, quindi ci aiuterà in un excursus per, diciamo, un mese e mezzo. E poi ci sarà la tripla A. La tripla A, praticamente noi ci sostituiremo all'agenzia di rating per dare al personaggio della settimana o del mese questa famosa tripla A, perché si è distinto per motivi economici. E a chi la date in questa puntata? A Flavia Pennetta. Mi sembra giusto. Perché in realtà lei in 70 minuti è stato staccato un assegno di 3,3 milioni di dollari. Quindi, insomma, e le interviste a chi sono? Allora, l'intervista sarà Pietro Salini. Bene. Poi avremo un collegamento con il ministro Orlando. E poi ci saranno anche dei pezzi molto interessanti. Uno è sul fatto amministrativo, al quale tengo moltissimo. Va bene. Tu Next, Rai 2, Economia e Futuro alle 23.50. Un programma da non perdere. Salamini! Poverino, poverino, poverino, chi è poverino? Oggi il poverino. Chi fa rima con poverino? Poverino. L'ignaro marino. Lui. L'ignaro, che è una definizione bellissima di Dago Spia, l'ignazio marino. Insomma, quello che doveva fare Matteo Renzi lo ha fatto il Santo Padre. Cioè? È stato Bergoglio pontefice regnante a commissariare il sindaco di Roma. È stato intervistato durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America e senza misericordia il Papa della Misericordia ha detto: io non ho invitato il sindaco Marino, chiaro, e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui si professa cattolico e è venuto spontaneamente. Allora, chiaro? Chiaro. Perché dici senza misericordia? Ho detto la verità. Papa della Misericordia, con misericordia, solito, ha detto la verità. Scusa, a maggior ragione un gesuita, di solito con la misericordia, come dire, un angolo se lo riserva per salvarlo. Invece ha fatto questo passaggio, prima chiaro, poi è diventato chiarissimo, quindi definitivo. Ma c'è un retropensiero: perché mai il Santo Padre ha voluto mettere tra parentesi il sindaco di Roma? Questa è la domanda. Forse perché c'è il giubileo in arrivo e quindi nelle mani squinternate del sindaco non sa come fare? Può darsi. Ai posteri! L'ardua sentenza. Mario, sì. Un'ultima bolla veloce. Al volissimo. Andiamo ancora su quattro ruote, anche se i tempi, diciamo, sono duri per chi viaggia in macchina. È solo per dirvi che il fondo del Qatar ha perso circa 8 miliardi di dollari a causa dei suoi investimenti nei titoli della Volkswagen. E come 8 vede, miliardi di dollari? Sì, tanti. 8 miliardi su 12 di perdite nell'ultimo periodo, perché le borse sono andate molto giù nelle ultime settimane. E come vedete, non bisogna mai godere troppo delle disgrazie altrui, perché finiscono come un boomerang, ti vanno addosso. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS viabilità. Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Mix 24. Mario, ancora una bolla? Sì, vai con Van Morrison. Allora, questo è un pezzo che si chiama Wild Night, insomma, di cose selvagge ce ne sono molte. La CBS ha dato una notizia molto importante, Giovanni: il piano da 500 milioni di dollari per addestrare i ribelli siriani, tanto per rimanere sul tema, ha chiuso i battenti. E perché? Perché disertavano, consegnavano le armi agli avversari, un fallimento totale. Questo dimostra quanto Obama si sia sbagliato sulla strategia. L'hanno anche come dire, fuoriovviato i suoi servizi segreti, che direi gli hanno abbastanza detto un sacco di balle. Segna anche non Totti. Non ci credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar con un diretto Panenka, aveva fatto lo stesso dalla finale europea. Sì, quella è stata una pazzia, perché ho fatto un gesto che sinceramente mi sentivo di fare, ero tranquillo, ero consapevole di quello che stavo facendo, fortuna, diciamo che mi è riuscito bene, tutti contenti. Lo ricordiamo tutti, è il 2000, la semifinale degli europei Italia-Olanda, Totti con il suo famoso cucchiaio fa, lo dice lui, una pazzia di un uomo vero e normale che ha compiuto 39 anni giocando come solo i campioni veri sanno fare. Gli appassionati tutti, romanisti, non romanisti, gli riconoscono il talento di un uomo incarnato nel suo territorio con semplicità, fantasia e ironia. pazzia anche quella di essere rimasto fedele a Roma quando il presidente del Real Madrid ha fatto carte false per portarlo a giocare a Madrid. Florentino Perez, il presidente appunto, ha detto che quella è stata la sua più grande sconfitta in questo calcio globalizzato, sempre più determinato dal marketing e dai diritti televisivi. Totti è una bandiera un po' nostalgica ma struggente. Auguri, auguri Francesco, anche da chi come me oggi è solo uno juventino che soffre e soffre molto. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di ricerca in medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, del 28 luglio 2015. La trombectomia dopo l'ictus migliora i risultati a 90 giorni. Professor Bernabei, perché questa è una novità importante? Ma questo che vi voglio raccontare oggi è un articolo che fa vedere veramente le frontiere della scienza, della medicina e le grandi capacità manuali, direi quasi artigianali, che oggi hanno i nostri medici. Trombectomia dopo ictus. Cosa vuol dire trombectomia e cosa vuol dire ictus? Intanto ictus. Ictus è quella malattia che fa sì che, siccome un vaso del cervello è stato ostruito da un trombo, cioè un ammasso di piastrine e quant'altro che impediscono l'afflusso di sangue in territori nobili, l'ictus è quella malattia per la quale si rimane con mezza parte del corpo incapace di muoversi, le cosiddetta paralisi, l'emiplegia, oppure la difficoltà a parlare in modo normale. E la trombectomia qual è? Cos'è? È il tentativo meccanico di andare su attraverso un catetere, un piccolo tubicino che viene inserito nell'arteria femorale all'inguine, risale su fino al cervello, agguanta questo trombo, lo dissolve, lo tira via e fa sì che il sangue possa di nuovo fluire. Questo, vi potete rendere conto la complessità della procedura, che deve essere fatta entro poche ore dall'insorgenza dei sintomi, ed è certo più complesso di quella che è la terapia invece attuale, che è semplicemente inserire attraverso una vena un fluidificante che disciolga in modo farmaceutico il trombo. Bene, cosa si è visto? Si è visto che chi è che è sottoposto alla trombectomia, cioè alla rimozione meccanica del trombo, dopo 90 giorni, nel 60% dei casi è autosufficiente, contro un 30% di chi è che ha avuto solo la terapia farmacologica. Raddoppia quindi la capacità di funzionare normalmente. E quindi non ci sono dubbi su che cosa è meglio fare. Sì, naturalmente non ci sono dubbi, però deve essere fatto entro 3-4 ore dall'inizio dei sintomi in mani esperte, che vuol dire ovviamente policlinici universitari importanti di riferimento. Oggi a Mix 24 racconteremo il giallo della morte di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Il suo pontificato è stato fortemente innovativo a partire dal rigore della dottrina, anche se brevissimo, dal candore del suo gesto e dalla trasparenza della catechesi. La teologia del sorriso, così l'hanno chiamata i giornalisti di tutto il mondo. Prima di lui Giovanni XXIII aveva conquistato l'affetto dei fedeli parlando come un padre. Dopo di lui, adesso, è Francesco a colpire il mondo con la sua sorprendente e vitale schiettezza. Ecco, Giovanni Paolo I muore all'improvviso all'alba del 28 ottobre del 78, dopo soli 33 giorni di pontificato, e subito corrono le voci su qualcosa di poco chiaro, fino alle ipotesi più drammatiche, di un giallo senza risposte. Papa Luciani. Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978. Credo che qualcuno abbia messo della digitalina o altro veleno che non lascia tracce fra le medicine che il Papa assumeva regolarmente. Io conosco tre casi della nostra famiglia di gente morta a 60, 62, 63 anni con lo stesso nome, senza che dicessero mal di testa, senza che dicessero poco appetito, e sono mancati così. Dopo ho sentito ste illazioni, ste voci. È fantasia, sono arci, non convinto, arci convinto che gli è successo quel che è successo alle zie e al nonno. Tra queste due dichiarazioni opposte e sconcertanti, quella dello scrittore David Yellow e quello del fratello del Papa, si svela tutta la drammaticità, il mistero, il giallo della morte di Giovanni Paolo I, Papa per soli 33 giorni. Testimoni inediti e rivelazioni sorprendenti tra pochi minuti dopo il giornale radio qui a Mix 24 col giallo della storia.